racconti della belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 24 ottobre sono le 17 primi 24 secondi, siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 per questa abrasiva puntata con queste due ore con cui ci auguriamo di farvi un pochino sobbalzare, arrabbiare, ma soprattutto di raccogliere la vostra opinione. Noi, compari dei conti da belva, oltre a Oscar Giannino che vi saluta, c'è Carlo Alberto Carnevale Maffè e Mario Seminerio e Renato Cifarelli che poi si collegherà nell'arco della trasmissione. Allora, come sempre, per darvi la possibilità di telefonarci all'800 24 00 24, rimandarci le vostre opinioni al 349 238 6666, sperando che i servizi dei nostri sms tornino in funzione, ma intanto voi mandateci le vostre opinioni. Vi diciamo subito su che cosa si articola questa puntata, perché abbiamo pensato di fare un putpurri di un paio di temi che sono nella legge di stabilità sempre o che sono proposti dalle cronache quotidiane, per vedere come la pensate voi. A proposito di legge di stabilità, poi qualche considerazione, perché nell'inizio della trasmissione, come sapete, facciamo un po' il punto della crisi italiana insieme a Mario Seminerio e ragioniamo su tante novità che continuano a uscire su questa legge di stabilità, di cui sorpresa da ieri abbiamo appreso da Bruxelles prima che dai testi italiani non ci sono, ma ieri sono apparsi i veri conti che il governo ha presentato a Bruxelles il 15 di ottobre. Quindi prima parliamo un po' di queste cose e poi iniziamo a prendere in mano il tema della bolletta RAI nel canone della RAI, nella bolletta elettrica, scusatemi, perché senza troppo inseguire le varianti quotidiane, visto che anche sulle sanzioni a chi non pagherà il canone in bolletta c'è una specie di balletto quotidiano, e tanto il testo della legge di stabilità non ce l'abbiamo, però la domanda di fondo è: a parte che siete favorevoli, siete contrari, la vedete come una svolta positiva, quindi telefonateci per dircelo, però la domanda che vogliamo porci è: siete sicuri che non capitino, noi crediamo di sì, un mucchio di guai sull'interpretazione dei dati, le banche dati che non vengono incrociate, richieste plurime a diversi componenti che hanno utenze elettriche diverse come intestatari rispetto ai precedenti che pagavano il canone RAI di pagamenti plurimi? Vedremo cosa succede. Intanto noi pensiamo che il rischio di caos sia molto elevato, e soprattutto garantendo per anni così più facilmente ancora la RAI soldi, più soldi di quelli che in realtà raccoglieva, non solo per l'evasione ma anche di quelli che in teoria ha diritto a raccogliere, e lo Stato si prende il resto, ha detto ieri, non è che otterremo una RAI che comunque non si riforma più e resta così com'è per anni? Ecco, queste alcune delle domande nella prima mezz'ora. Poi prendiamo in mano la vicenda di Sanremo, cioè la vicenda di Sanremo i cui dipendenti, per il 72% dei dipendenti controllati dalla Guardia di Finanza a Sanremo non erano in regola, e oltre il 40% del totale della pianta organica dei dipendenti di Sanremo si becca adesso indagini, oltre una quarantina arresti, ma tutti gli altri indagini per truffa eccetera eccetera. Bigiavano al lavoro, bollinature false all'ingresso, mandavano i bambini e i figli a passare il badge. La domanda diventa: ma se è così, ma di quanti dipendenti pubblici potremmo fare a meno in realtà? Lo so, è una domanda provocatoria, però avremo con noi il sottosegretario alla funzione pubblica, perché è provocatoria sì, ma insomma, fino a un certo punto. E poi ancora un'altra testimonianza, perché avremo una parlamentare che ci racconta la risposta che gli ha dato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a una domanda: ma perché noi dobbiamo pagare fino all'ultimo interesse di mora allo Stato se siamo in ritardo con i pagamenti di qualunque tipo? E lo Stato e i suoi fornitori, nel saldare con immenso ritardo ancora i suoi debiti commerciali alle imprese, invece disconosce gli interessi di mora, cioè se i creditori pubblici vanno a farsi scontare in banca, quindi si fanno cartolarizzare, come si dice, il credito che vanno nei confronti dello Stato, questo vale solo per l'effettivo del debito, ma non sugli interessi maturati nel frattempo. E vedremo che cosa lo Stato ha risposto a questa parlamentare che ha detto: ma che razza di comportamento asimmetrico è? Lo Stato risponde: perché sì, perché a noi piace così. E allora ci interrogheremo su questi fatti, ma non solo su questi, perché innanzitutto vediamo un pochino su che cosa i nostri compari questa settimana, oltre a tutti questi temi di cui parleremo, si sono arrabbiati. Cominciamo con Carlo Alberto. Ma io ero tranquillo questa settimana, ti confesso. Ah, sì? Sì, sì, con tutte queste notizie ho detto ci, mi arrabbio sabato, quindi no, io passo la parola a Mario, devo dire tranquillamente. No. Non ci posso credere. Siamo, abbiamo raggiunto il Nirvana. No, a me lascia molto perplesso scoprire che il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato la prefazione di un libro che si intitola Elogio dell'omeopatia, e che è stato scritto dal presidente dell'associazione che riunisce i produttori, diciamo, di rimedi omeopatici, la Omeoimprese. Ora, poiché fino a prova del contrario credo che ci sia una letteratura scientifica piuttosto precisa per quanto riguarda l'efficacia o il suo contrario dell'omeopatia, e poiché il ministro Lorenzin fa il ministro della salute e quindi tendenzialmente dovrebbe esprimersi in funzione dell'esistenza di letteratura, non si capisce per quale motivo scrivere una prefazione. E io lo capisco, spending review, scusami, cioè distribuire acqua fresca produce sicuramente risparmi netti sul bilancio farmaceutico, non capisco perché te la prendi. No, certo. Vabbè, sai, essendo questo il paese, diciamo, del metodo stamina e di quant'altro, oppure, diciamo, magari, come dire, il fatto che abbiamo un ministro della salute dotato di maturità classica come titolo di studio serve a definire queste licenze poetiche, però diciamo la letteratura scientifica sta altrove ed è un'altra cosa. Questa mi pare abbastanza uno scivolone istituzionale e di ruolo. Chissà, sono stati collaboratori, lei non lo sapeva, però lei detto ha questo firmato ha firmato la prefazione a sua insaputa, diciamo. Non c'è dubbio. No, io devo dire che questa settimana tra la raffica di arresti quotidiani dovunque, perché voi guardate la vicenda all'ANAS, la dama nera degli appalti all'ANAS, che a quelli che non volevano pagare li presentava al ministro, che io trovo fantastico anche come meccanismo, dice, cioè, per indurre a pagare, ma io ti faccio fare un giro nella stanza del ministro, la dama nera, capite? Oppure che ne so, l'ex, la direttrice del Beccaria a Milano, quindi stiamo parlando di una dirigente del caso di correzione penitenziari per minorenni, per capirci, che a propria volta faceva gli appalti sotto i 40.000 per non farsi controllare e lì ci infilava i propri parenti. Ecco, cioè, c'erano ogni giorno cose di questo genere, delle prove inconfutabili, per così dire, del fatto che non si può tagliare la spesa pubblica nel nostro paese da una parte, ma dall'altra anche del fatto che ci può fare, cioè possano gli anni, i decenni, la seconda repubblica, la terza repubblica, ma la verità è che nel nostro paese non è solo la politica, oramai nella pubblica amministrazione è dovunque questa cosa qui, dovunque. Capitano poi cose che mi indignano perché riguardano l'informazione. Faccio un esempio puntuto, sì lo so, me ne assumo la responsabilità. Oggi è il terzo giorno di seguito che il Corriere della Sera dedica una pagina intera, terzo giorno di seguito, sposando la causa dell'Agenzia delle Entrate a difesa dei dirigenti illegittimi. È il terzo giorno di seguito e oggi arrivano a fare un'intervista al sottosegretario Enrico Zanetti, che fin dal primo momento al MEF ha sposato la linea della legalità dicendo no, voi dovrete fare i concorsi, non vi diamo né la sanatoria né i premi che il Corriere della Sera ieri ha chiesto di dare ai dirigenti legittimi, perché altrimenti se ne vanno, poverini, e gli fanno un'intervista nella quale dicono dica la verità, lei è un commercialista e quindi lei lotta contro la trasparenza dell'Agenzia delle Entrate. Allora, questo è il primo giornale d'Italia, colleghi del Corriere, direttore del Corriere, te lo chiedo in ginocchio da lettore, guardatevi da sposare cause di questo tipo, perché è veramente, quelli sono dirigenti illegittimi, non so se è chiaro, che ci fanno la predica di etica, e il Corriere della Sera non può che stare, perché l'etica chiesta a noi valga innanzitutto per loro. Questa è la mia opinione. Sì. Se, però se mi consenti, te l'avevo chiesto prima, se posso parlare di contanti, mi lasci parlare di contanti? Ma andiamo sotto il tempo. No, perché, diciamo, io, no, piatto, momento, per i nostri ascoltatori, tetto al contante, non ci stiamo. Sì, contanti. Un conto è la dama nera e un conto è il gufo grigio che ho davanti. No, lo sapevate che volevo parlare di questa faccenda qua. E devo dire che i fratelli Padoan, ancora una volta, anzi gemelli Padoan, si sì. Chiama Mario, no? Ancora una volta, secondo me, dare un bel esempio di come non si faccia una corretta legislazione in questo paese, si decida sulla base della pancia. È un tema di questo genere che avrebbe amplissima possibilità di essere utilizzato come elemento quantitativo, perché insomma, sono tutte metriche che possiamo utilizzare. Niente, dibattito una settimana di dibattito senza alcun numero, quattro riferimenti alle medie di uso dei contatti in paesi completamente diversi come prassi, esatto, commerciale, esatto. Del tutto irrilevante dal punto di vista della, come dire, della dimostrazione né pro e né contro, perché poi io non sto prendendo, certo, io mi lamento dell'assenza totale di cultura quantitativa su un tema che è quantitativo l'aperitivo fino all'ultimo centesimo. Sì, ma guarda, adesso hanno invertito il ragionamento che facevano esattamente 12 mesi fa, senza portare uno straccio di evidenza. Perché questa è la cosa più desolante di questo modo, di questo spin, di questo modo di fare dibattito pubblico. Anch'io ho una posizione laica, però ragazzi, non prendiamoci in giro. Cioè, l'obiettivo di fondo è quello di ridurre l'attrito alla circolazione del denaro per canali esterni, paralleli e non tracciabili, e per questa via evitare che il denaro fuoriesca ai valichi di confine, no? Per andare a fare la spesa in Slovenia, in Francia, in Svizzera e in Austria. Il motivo è questo. È, quel... è solamente so. Questo. Si fa una modica quantità di nero. Esatto. Il VM domestico, la velocità del circomonetario interno invece sì, che fuori. Ma è una resto... forma blanda di controllo dei capitali che però non viene ammessa come tale. Ma no, ma infatti ma c'è l'ipocrisia di non dire le cose come stanno. Se si dicessero le cose come stanno, del resto quando Renzi viene fuori a dire gli italiani hanno nascosto esatto. i risparmi in banca, io avevo fatto questa battuta nel senso, detto così sembra che gli italiani prendono le banconote e le mettono in cassetta di sicurezza. Esatto. Qualcuno ha detto ai lavori, mi fa notare che è esattamente così in molti casi. Sì, è così. A Sassuolo hanno inventato queste piastrelle forzose. Dai, ragazzi. Torniamo tra un minuto, siamo in ritardo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi. Della belva. Eccoci tornati qua in diretta dagli studi Radio 24 di Milano, i compari dei conti della belva. Carlo Alberto, Mario e Oscar. Iniziamo subito con l'esame di qualche dato della settimana, ma poi con un po' ancora di opinioni qui un po' ruspanti sull'evoluzione della famosa legge di stabilità che non c'è ancora e quindi l'abbiamo appreso prima da Bruxelles che da Roma. Ma intanto la sigla della nostra rubrica. Sto vivendo una crisi, una crisi. Ed eccoci qua con il punto sulla crisi di Mario. Allora, ieri un dato su ordinativi, la manifattura e così via. Certo, dato mensile, però come sempre qualcosa vorrà dire, no? No, beh, vuol dire soprattutto che non bisogna guardare i dati mensili. Infatti ieri c'è stato un silenzio assordante dalle parti di Palazzo Chigi perché c'era il segno meno. E c'era un pesante segno meno su fatturato. L'Italia col segno più omette le notizie col segno meno, no, non vedo quale sia il problema. Io mi sono permesso di suggerire al Presidente del Consiglio di farsi spiegare dallo stuolo di economisti che lo attorniano il concetto di rumore statistico, così magari evitiamo di fare commenti entusiastici quando c'è un dato mensile positivo e questo silenzio assordante quando ce n'è uno negativo. Però si però prende il dato tendenziale, si prende la variazione, cioè anno su anno, e si scopre che mentre complessivamente la manifattura italiana langue, perché questo è langue, diciamo, e ci sono anche scricchioli, e questo ve lo segnaliamo da molto tempo per quanto riguarda il commercio estero extra Unione Europea per la famosa crisi dei paesi emergenti, notiamo che il dato manifatturiero relativo alla fabbricazione di mezzi di trasporto fa segnare sul tendenziale un bel più 21% a fronte di un meno 2,4% complessivo del fatturato. Se poi guardiamo il dato grezzo, diciamo degli ordinativi industriali, abbiamo più 2,1% e mentre fabbricazione di mezzi di trasporto più 14,3%. Quindi è ancora una volta, siccome noi lo diciamo da mesi, no? E ci siamo stati anche sbertucciati, diciamo, da economisti che cercano la luce, l'uomo, la voce, la verità, la via e la vita. Qui c'è un peso particolarmente rilevante della ripartenza Fiat. Fiat impegnata, ripeto, su mercati di esportazione con le produzioni italiane, per cui si va a leva nel bene e nel male. Certo. Però possiamo dire che in questo momento l'industria dell'auto sta trainando il manifatturiero italiano. Poi, se vogliamo trovare dei meriti politici, visto che bisogna essere equi ed equanimi, anche un po' equini a volte, possiamo dire che magari sono state poste le condizioni per favorire il reinsediamento e il rilancio Fiat. Sì, questo può essere. Però siamo sempre nell'ambito dell'impalpabile. Io ribadisco, facciamo attenzione a come evolve la congiuntura, non sono solo io a dirlo. perché è sicuramente una congiuntura problematica, soprattutto per quanto riguarda i paesi emergenti. Ieri la Cina ha nuovamente tagliato i tassi, esatto. Sesta volta da novembre. Sinceramente era una misura attesa, perché io credo che la Cina stia continuando a immolare riserve per impedire che il cambio ceda di schianto e crea problemi a tutto il pianeta, però il quadro non è particolarmente brillante. In tutto ciò l'Italia resta un'isola felice, se abbiamo svoltato, stiamo crescendo, abbiamo il nostro zero virgola e vissero tutti felici e contenti. Ed è il senso poi in definitiva della manovra, come l'argomenta Padoan, cioè dice noi dobbiamo isolarci da una frenata mondiale dalla deflazione che importiamo e quindi... vai con il sostegno, la fiducia, i consumi, più che valutare il mix di interventi sull'apporto che possono dare nel medio e lungo periodo strutturale. Cioè il boom in un solo paese, praticamente. Il boom, sì, come voleva fare Mitterrand nell'81, poi finì con il muro. Siamo diventati dei troschisti del consumo interno, sì, per così dire. Finirà con una picconata. No, ma adesso sapete che anziché arrivare per le case con il famoso giornaletto di lotta comunista, adesso il governo manderà degli strilloni per le case con il giornaletto di lotta consumista. Questa cosa possiamo cercare di vedere, di rilanciare la domanda. Ma ci starei attento, perché in questo momento è veramente tutto auto, se posso dire. E fammi dire che sarà un segnale simbolico. Per la prima volta in 12 anni, 11 anni, Fiat, Exor Fiat, ha superato Eni come prima azienda industriale del paese. È un bel segnale, intanto perché i colossi di energia parapubblici, per quanto voglia bene all'Eni, non mi sono mai stati particolarmente simpatici. Eni ovviamente paga il prezzo del petrolio che è sceso, anche se ha delle opportunità importanti. Ricordiamolo che è un bel risultato dell'ingegneria italiana, quello che è successo in Egitto, è un colpo di fortuna ben gestito, se posso dire, no? Però ecco che un'azienda industriale come Fiat, che diciamo, ricordiamo, era morta dal punto di vista finanziario. Sia nel 2004 che di nuovo nel 2008. Nel 2008. Quindi... io trovo che sia bello raccontare una storia di una rinascita con tutti i vincoli, i problemi, come abbiamo detto mille volte, no? Anche perché dopo l'IPO Ferrari ha questi multipli per di più. Infatti voglio dire che quotare Ferrari questi multipli, onestamente Oscar, guardiamoci negli occhi, chi l'avrebbe mai detto? Ma no, ma lui... cioè, un colpo di genio, assolutamente, un colpo di genio. Il re dei gamblers da questo punto di vista. Ma io ti dirò di più, io credo che nel 2016 lui la grande OPA su GM la lancia con larga parte del mondo dei grandi fondi americani e il sindacato d'accordo. Quindi e lì entra dalla storia dall'industria nella storia, secondo me, dell'economia. Entra nella leggenda a quel punto. Questo, adesso non esageriamo, però io sono convinto che questo nel 2016 ha posto tutte le premesse. A quel punto metterci a parlare di Italia e tale sarà una cosa ridicola, perché lui dice: ma ragazzi, ho preso GM, di che state parlando? Però questo ci porta lontano dall'Italia, questo discorso, ma però ha ragione Mario a farvi riflettere sul fatto che nei dati, praticamente, se levate i 5 stabilimenti, Melfi e così via, non resta più niente col segno più dei diversi comparti della manifattura italiana. E allora attenzione su una manovra in legge di stabilità fatta di mutasi, soprattutto di mutasi. Se voi andate a vedere i famosi 23 miliardi che vengono annunciati di taglio fiscale, se gli levate i 16,8 miliardi di clausola di salvaguardia, per il resto è i mutasi, perché la faccenda, per il resto gli incentivi che vengono poi messi, quelli in decalage per la decontribuzione dei contratti di lavoro e quelli positivi per gli investimenti, però anche lì investimenti al lordo, non investimenti netti aggiuntivi, sempre lo stesso discorso, sempre per dare all'ordo. Fiducia alle imprese, esattamente, è poca roba rispetto al fatto che il core è i mutasi. E perché i mutasi, visto che l'apporto sul PIL potenziale è incomparabilmente più basso che sul resto? Per questo discorso che vi stiamo facendo noi. È la più grande cosa fiscale della storia italiana? No, perché al netto, se levate le clausole fiscali e levate anche gli aggravi d'imposta che sono compresi nella manovra, restano in realtà al netto 2,3 miliardi esatto. di imposte in meno pagate. Non lo diciamo perché siamo gufi, ma perché le cifre questo dicono. Oltretutto, anche dalle poste che abbiamo appreso ieri dal sito della Commissione, ed è, vi garantisco, per un giornalista che si occupa di faccende economiche e finanziarie, vedere che il Quirinale non dice nulla una settimana dopo l'approvazione della legge di stabilità finta in Consiglio dei Ministri e non c'è ancora il testo, essere noi costretti a dire che ce la dà la Commissione i testi presentati dal governo e non il governo è una roba intollerabile. Ma ancora oggi, dopo che ieri apprendiamo dal sito della Commissione Europea che è vero che c'è 1,8 miliardi di compressione della spesa aggiuntiva per le regioni, oltre alla diminuzione tendenziale della tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale, ma oltre a questo apprendiamo che ancora manca 1,1 miliardi anche per far tornare i conti della loro manovra da 27 miliardi, e apprendiamo fine, perché poi passo la parola a Carlo Alberto, che dall'ottimizzazione della spesa, tutto quello che resta insomma della spending review di Perotti e Gutgen, dall'ottimizzazione della spesa la cifra è 218 milioni, tutto qua, sì, sì. Che è una roba che uno dice, solo a Sanremo, bandiera uno bianca, cioè. No, ma Sanremo fai di più da solo. Sono manovre di lungo periodo, però ma sì, si può avere il risultato subito. No, e invece su questo lungo periodo fatemi dire, perché questa riduzione fiscale in realtà è un colpo alla lattina di birra lungo la strada, come dicono gli americani, kick the can down the road, perché in realtà abbiamo solo spostato al 2017 le clausole. E ricordo che questo taglio di tasse è in realtà il procrastinare di una clausola di stabilità che prevedeva che dal 1 gennaio pagassimo l'IVA 2 punti in più, e invece l'IVA la paghiamo dal 2017, e questo nella testa strana dei nostri ministri dovrebbe far aumentare la spesa degli italiani, che siccome avevano anticipato l'aumento, esatto, dell'IVA, sì, allora adesso spendono perché non c'è più. Ma in che film? Se facciamo un'indagine sugli italiani, il 91% manco sa che cos'è il bail-in, figuriamoci se sappiamo che cos'era la clausola di stabilità. No, quindi no, cioè, l'assunto economico sottostante è, secondo me, completamente privo di senso. Ma soprattutto, visto che il Presidente del Consiglio ama dire che bisogna dare certezza, vi hanno dato certezza per il 2016. Ecco, nel 2017 sono affari vostri, e tra un anno torneremo a discutere di queste cose o ne discuteranno altri. Com'era la battuta che avevi fatto, Carlo Alberto, su vi danno per i soldi che non... Sì, sì, avevo sintetizzato in questo senso, ho detto il governo come dire, ti toglie una tassa che pensavi di no, che tu non pensavi di avere a tutti gli effetti, per dirti di spendere i soldi che sai di non avere, che no? Sai di non avere. E questo è, secondo loro, rilancia i consumi. Che poi, scusate, ma questa cosa anche sul piano logico zoppica, perché io leggevo ieri il commento sul Corriere di Alesine Giavazzi, sì, no? Che, o ieri l'altro, che loro dicono gli italiani, se prendono coscienza che l'aumento IVA ci sarà, dovrebbero tendenzialmente anticipare le decisioni di acquisto. Sì. Ora, le decisioni di acquisto anticipate sui beni di consumo durevoli vuol dire che il consumo si svolge nell'anno in cui siamo. E allora, se tu dici, se gli italiani credono a questa idea, no, dell'aumento IVA prossimo, il boom dei consumi è già alle nostre spalle. In teoria avrebbe dovuto essere alle nostre spalle. Esatto, per cui attenzione, perché la logica è una gran brutta bestia, sì, diciamo, sì, oltre al fatto di dare sicurezza, non variare continuamente la normativa e cambiare da un anno per l'altro. Attenzione. E questa politica sincopata anno per anno certamente non aiuta, soprattutto non aiuta gli investimenti. Posso dire che il problema dell'Italia non è solo, sì, e non è tanto la spesa... No, no. 28 corrente. Punti di investimenti che mancano. Questo è il problema, che poi su quelli lavorano sulla una produttività che non cresce. E quindi quando dice alle imprese investite nel 2016, mi raccomando, quindi stai distorcendo piani di investimento senza dare certezze sulle categorie. Non va bene, per quanto sia contento del fatto che finalmente c'è un segnale per gli investimenti, certo, delle imprese. Però non è così che si fa politica fiscale. Il superammortamento è l'anticipazione, ammesso e non concesso che la congiuntura regga e quindi ti dia una motivazione economica, se no non facciamo altro che prendere a prestito dal futuro e dopo sono cavoli amari, ecco, per cui il problema è anche quello. Allora, io spero, adesso facciamo pausa, però spero che sia chiaro che ci ascolta, che noi non stiamo criticando per pregiudizio il governo. Tentiamo di riflettere su una logica che ci sembra sincopata, fatta con delle premesse, cioè questa cosa della fiducia dei consumi anteposta alla valutazione degli effetti sul PIL potenziale, che non ci convince rispetto a quello che abbiamo perso e a quello che dovremmo fare, e soprattutto con questi segnali che temporalmente variano e sono contraddittori in un intervallo di varianza così sincopato che questo ridia certezza per cose di lungo periodo come gli investimenti o i comportamenti dei consumi delle famiglie, a me non sembra. Quindi sono ragioni di questo tipo qua, non perché non ci sta simpatico il caro ragazzo. A tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati in diretta, 10:35 primi 8 secondi, compare dei Conti la Belva, Oscar, Carlo Alberto e Mario. Ed è ospite, anzi abbiamo entrambi gli ospiti questa primo blocco che esaminiamo insieme alla vostra attenzione, speriamo con le vostre telefonate, la faccenda del canone Rai in bolletta. Siccome non abbiamo il testo della legge di stabilità e siccome abbiamo solo le tabelle di quelle da Bruxelles. Io di testi ne ho almeno 4, non so tu quale testo leggi, ne vedo almeno diversi, 5-6 diversi. Il testo che dovrebbe far testo, perché siccome non ne hanno approvato uno, il capo dello Stato farebbe bene a farli di nuovo riunire. Ma abbiamo ministri. Un processo innovativo, cioè partiamo con i tweet, continuiamo con le slide, poi arriva il comunicato stampa e 10 giorni. Mi pare che il capo dello Stato stia guardando sezioni della legge di stabilità, esatto. A dispense praticamente. Sì, e poi la riscriveranno anche insieme a lui. Detto questo, però, siccome le cifre che fanno testo, cioè quelle mandate il 15, la Commissione Europea di Bruxelles ce le ha date, ma lì non c'è la parte, per così dire, ordinatoria, ci sono solo le tabelle. Allora, tutti i giorni le anteprime in realtà su come funziona il canone in bolletta si modificano, quindi la novità di giornata di ieri è che dopo che vi hanno detto che la pagherete in 6 rate nella vostra bolletta elettrica si torna invece a una rata unica, dopodiché noi scommettiamo che ci saranno impugnative, noi scommettiamo che ci sarà un caos da mancata interfaccia del database di chi aveva il canone e chi no rispetto a chi sono gli intestatari dei contratti elettrici nel nostro paese. Ricordo, sono centinaia i gestori di un mercato liberalizzato elettrico di questo servizio. Stiamo parlando di un canone che nasce quindi come tariffa, che poi diventa tassa sugli apparati di audioricezione e che ora si rinnega e si riannega in una tariffa, ed è anche un problema costituzionale da questo punto di vista, secondo me. Detto tutto questo, con i nostri ospiti tentiamo di capire se non sia vera due faccende. Primo, quanti problemi insorgeranno dal punto di vista tecnico per chi gestisce il servizio, e quindi abbiamo con noi per parlarne il presidente di Assoelettrica, Chicco Testa. Buongiorno e grazie di essere con noi, Chicco Testa. Buongiorno, buongiorno. E insieme al professor Marco Gambaro, che invece insegna economia dei media all'Università Statale di Milano, ci porremo il problema se questa non è una scelta un po' furbetta per continuare a garantire per anni e anni alla RAI un bel flusso di risorse. Anzi, il governo si prende anche risorse aggiuntive che in camera con questo sistema, e che consente in realtà di non prendere mai il toro per le corna, di vedere se e come cambiarla questa missione del servizio pubblico della RAI. Grazie di essere con noi, professor Gambaro. Grazie, buongiorno. Chicco Testa, qual è la vostra previsione? Perché Assoelettrica ha protestato finché ha potuto, poi ha taciuto dopo che il governo ha detto no, si fa così e io la metto in legge di stabilità. Vi è stato dato garanzia che avrete ampio accesso a una piena cooperazione delle banche dati della RAI, del Ministero, eccetera, eccetera, che non sarete voi a fare i garanti del raccolto tributario allo Stato come sostituti d'imposta e a dover anticipare le risorse? Come funziona lo Stato attuale? Chicco Testa, è caduta la linea? È caduta la linea di Chicco Testa, benissimo. Quindi intanto fammi fare un appello ai nostri radioascoltatori, cioè uscite di casa, andate in macchina, accendete la radio, perché così fate due cose importanti. A, non consumate energia elettrica, quindi zacchete, hai capito, non paghiamo la bolletta, sia adesso che Chicco non c'è, possiamo anche dirglielo. Secondo, usufruite di un servizio sostanzialmente gratuito messo a disposizione dal mercato. Mi sembra una bella cosa, no? È un modo per difesa civile non violenta contro l'imposizione fiscale dello Stato. Io posso solo ricordare ai nostri ascoltatori che quando abbiamo avuto con noi quello che passa per essere l'estensore della norma, cioè il sottosegretario Giacometti, ospite di Attenti a Noi due mattine fa con Alessandro Milan, a domanda specifica, perché gli abbiamo chiesto di chiarire l'equivoco: ci dite ufficialmente quali sono i device a cui si applica la tassa, cioè la famosa storia, i PC, gli smartphone? E lui ha detto no, solo gli apparecchi, gli apparati televisivi. Guardate che a leggere il decreto del 38 che disciplina la materia non sembra che sia solo così, perché c'è scritto anche che tutti gli apparati che possono essere dotati di un sintonizzatore con il quale si capta il segnale. Ma quando gli abbiamo chiesto, a proposito di radio, ma vale anche per gli apparecchi radio? Giacometti ha iniziato a dire anche perché vi ricordo che la digital radio non ha un sintonizzatore tecnicamente, quindi mi spiace, ma l'hanno più cannata sta storia. Vabbè, comunque, allora, Chicco Testa è tornato con noi? Sì. Eccomi. Allora, quanti problemi tecnici insorgeranno? Il governo dice che li ha tutti risolti con voi scrivendo la norma. No, allora, sono tre ordini di problemi rapidamente, perché ci tengo anche a dire la mia opinione, no? Io considero, probabilmente come te, il canone Rai una tassa del passato, no? Ho scritto più volte, la soluzione è vendere almeno un paio di reti televisive. Primo. Secondo, come hai ricordato, l'idea di mettere il canone in bolletta non ci rende felici, perché noi vendiamo energia elettrica, già la bolletta è sporcata da una montagna di oneri impropri, voci diverse, no? Per esempio il finanziamento alle rinnovabili, per carità, magari cosa degnissima, ma non si capisce perché deve stare in bolletta sporcandola e annacquando il vero oggetto della bolletta, che è la vendita di energia elettrica, no? Questo è il motivo per cui in fondo ci siamo opposti finché abbiamo potuto. Poi, presa la decisione, uno dice: vabbè, cerchiamo di fare le cose al meglio, no? Allora, io non so come voi, non so che cosa ci sarà esattamente dentro la legge di stabilità. Diciamo che la buona parte dei problemi tecnici, così è stato concordato, dovrebbe essere poi rinviata al decreto attuativo, perché non è che in legge si può entrare nel dettaglio e stabilire tutto, no? Anch'io leggo di tanto in tanto novità, per esempio quella adesso della rata unica, eccetera, eccetera, ma non so quanto siano indiscrezioni, pensieri o cose vere. Tecnicamente le cose si possono fare, diciamo, non è impossibile farle. Le cose che sono state stabilite è, prima di tutto, noi non siamo sostituti d'imposta. Quindi diciamo, non date voi l'anticipazione, non siete garanti del flusso raccolto allo Stato. Esatto, la bolletta elettrica è una specie di canguro che porta nel marsupio una tassa che non ha natura tariffaria, no? È semplicemente ospitata in bolletta. Quindi, primo, non siamo sostituti di imposta; secondo, non ci occuperemo noi del recupero della morosità, abbiamo un obbligo di segnalare gli eventuali morosi del canone, ma non recuperarlo. Ma voi non fa, scusa, non, il sì. gestore non potrà essere messo in condizione di fare una revisione della lista di coloro con cui ha contratti in essere di offerta di servizio elettrico alla luce dei dati eventuali raccolti o che qualcuno desse loro su chi ha il canone? No! No, la cosa è relativamente semplice, nel senso che mi pare di capire che la norma stabilisce che si paga il canone quando hai un'utenza elettrica, ok, e che se hai due utenze elettriche intestate alla stessa persona paghi una volta sola, no? Quindi si tratta di mettere a punto una banca dati che per larghe parti esiste già, perché in un qualche modo quando uno fa un contratto elettrico mette anche la sua residenza. Il sistema informativo nazionale che sta presso il GSE questi dati li dovrebbe avere, no? Quindi la cosa, diciamo, può funzionare. No, ma naturalmente la cosa più banale è quella che veramente è in moltissime famiglie, in cui il canone andava a quello che un tempo era storicamente il capo famiglia, mentre invece l'utenza elettrica, dovuta al fatto che poi nella vita uno cambia gestore, sta all'altro coniuge, e talvolta ai figli, ma soprattutto l'altro coniuge, nella stragrande maggioranza dei casi. Nel qual caso uno potrebbe ragionare: vabbè, ma intanto è sempre uno per famiglia che paga, in questo caso l'altro coniuge. Attenzione, perché resta la presunzione sull'altro che non sta pagando. Cioè, voi di tutte queste cose, la domanda pertinente per chi contesta è: comunque avete la garanzia che non se ne occuperanno le società elettriche? No, ma soprattutto, voglio dire, è abbastanza indifferente nel caso in cui tu che da te citato, paga quello che ha il contratto elettrico e non paga più quell'altro. Cioè, noi non prenderemo come riferimento l'attuale database di chi paga o non paga il canone, prenderemo come riferimento, verrà preso come riferimento l'intestazione dei contratti elettrici. Solo che a quel punto, per non pagarlo, il vecchio abbonato RAI deve fare un'autocertificazione. Perché gli arriverà da pagare? No, non gli arriverà da pagare la canone, e la RAI non emette più nulla. Noi prendiamo il database dei contratti elettrici e tutti coloro che hanno un contratto elettrico manderemo questa cosa come il vecchio database scompare. Chico, posso chiedere che succede delle commissioni bancarie di incasso? Gli girate qualcosa oppure prendono il netto? Ancora, dunque, questo è uno degli aspetti, ovviamente, abbiamo sollevato un problema, voglio dire, che non è che vogliamo guadagnarci, assolutamente. Però no, chiediamo di essere rimborsati dei costi, che sono due tipi di costi. Primo, bisogna fare un'implementazione dei sistemi informativi, e poi secondo, c'è una manutenzione, ci sono dei costi operativi, perché dobbiamo tenere una contabilità, segnalare, eccetera eccetera. Ho anche insistito, e mi pare che l'idea sia passata, che questo non sia una voce aggiuntiva ma sia una parte di quanto verrà riscosso con il canone, diciamo, anche perché faremo noi un lavoro che prima facevano altri, quindi in un qualche modo c'è una sostituzione, no? Ma sapete anche se a quel punto è una voce integrante e quindi sottoposta alla stessa accisa, perché o no? No, è assolutamente il contrario, oh. Diciamo, adesso poi tecnicamente come l'abbiano risolto nella normativa di legge non te lo so dire, però come dicevo prima è un'imposta che viene appoggiata su uno strumento di riscossione che è la bolletta. No, no? Questo è importante ripeterlo, perché a casa significa che il canone altrimenti sarebbe di 114, non di 100. Diciamo che io mi sono permesso anche di insistere, poi vedremo negli anni prossimi, perché forse il primo anno va sperimentata, se la riduzione fosse maggiore, perché ovviamente... Eh no, ma lo Stato, hai visto, ha detto che si incamera quello che entra di più, quindi lo Stato, sai com'è. E poi oltretutto attenti, perché quest'anno è canone RAI, come avrai letto l'ANCI ha detto, però bella idea, perché non ci mettiamo anche la Tari sopra? Cioè, il canone elettrico diventerà il sostituto dei vecchi esattori dello Stato assoluto, questa è l'idea di fondo, diventerete il braccio armato. Questo è il punto, perché altrimenti ragazzi candele, questo è... Altrimenti no, anche perché noi abbiamo detto con forza, no? Che noi non stacchiamo la luce a chi non paga il canone, no? Cioè se tu non mi paghi niente ovviamente io faccio le mie procedure di discussione ordinarie, ma se tu decidessi di non pagarmi il canone, no, e di pagarmi il resto della bolletta, io non voglio che venga meno il rapporto fiduciario che ci deve essere tra l'erogatore di energia elettrica e l'utente. È prevista anche la possibilità, così mi è stato detto, che uno autodichiari che non possiede alcun apparecchio televisivo. Sì, anzi, questo sarebbe il fondamento del nuovo rapporto che si crea. Ma... ecco, esatto. Però, naturalmente, un'autodichiarazione adesso diventa, se è un'autodichiarazione falsa, diciamo, rientra nella fattispecie del penale, quindi sì. Insomma, uno deve stare un po' attento a quel che dice. Ecco. Però io devo fare un commento. Ci sono numerosi diciamo, utenti elettrici che hanno la bolletta domiciliata, quindi quelli che desiderano e pensano di scorporare per i più vari motivi, perché vogliono contestare l'addebito del canone in bolletta eccetera, a questo punto non hanno altre alternative che sospendere la domiciliazione della bolletta, soprattutto a maggior ragione se e passare, diciamo, quando arriverà il sollecito dell'azienda elettrica con un bollettino di conto corrente e pagare secondo le vecchie modalità, per cui pagare rischia, imposta, che pagare imposta, pagare comunque con un bollettino, capisci? Esatto, però voglio dire, ci sarà molta gente o forse ci sarà qualcuno che ritenendo di non dover pagare il canone RAI sospenderà la domiciliazione della bolletta e poi farà dei calcoli a manina. La realtà, Mario, che questo è il modo per cui lo Stato praticamente rende impossibile, tranne a minoranze non significative, la contestazione radicale di questa tariffa che diventa tassa e che si rinnega in una tariffa. Usare sostituti, inventarsi in questa maniera un sostituto d'imposta rischia di avere degli effetti a cascata, delle conseguenze. Però a me la cosa che irrita di più è che di solito quando sollevi argomenti sul fatto che questa, ripeto, un canone che diventa tassa e che poi viene negato in una tariffa, e il modo per non affrontare il nodo della riforma della RAI, per non capire quale tipo di modello tra quelli in Europa, c'è chi non ha gli spot, c'è chi ha gli spot e non ha il canone, noi invece non cambiamo niente e mi tacitano sempre dicendo zitto tu amico degli evasori. Ecco, questa maniera a me oramai mi fa uscire dai gangheri, me lo fanno i colleghi giornalisti, me lo fanno gli ascoltatori. Cioè, siete tutti così felici di prenderla nel sedere perché la RAI dei partiti resterà per sempre con queste risorse e voi dite che è meglio pagare il canone in bolletta? Perché dicono, ce l'abbassano, ce l'abbassano. Benissimo, viva i sudditi, sono cretino io. Intanto, grazie Chicco Testa e poi torniamo col professor Gambaro. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... della belva. Eccoci qui tornati in diretta a 10:50 primi e 59 secondi. Abbiamo sentito il presidente di Assoelettrica sui problemi che insorgeranno col canone in bolletta della RAI e abbiamo con noi adesso il professor Marco Gambaro, a quale appunto chiediamo, ma non è un bel modo per non affrontarlo mai il problema quanti soldi ha la RAI, per che tipo di struttura organizzativa e per che tipo di mission di servizio pubblico? Perché questo chiude, per così dire, la bocca a tutti per molti anni. Lei che pensa, professore? No, penso che siano due problemi diversi. Da un lato l'Italia ha un problema storico di evasione maggiore degli altri paesi, circa il 25-26% contro un 6-7% fisiologico. Da questo punto di vista, dal punto di vista di merito, diciamo così, la soluzione di usare un veicolo che arriva dappertutto come la bolletta elettrica appare non irragionevole per ridurre questa evasione. E finché si ritiene che il canone sia un'ipotesi che sta in piedi, che è tutto da dimostrare, questa cosa può essere fatta. Ci sono dei problemi tecnici, va detto anche che sebbene molti dicano di non avere il televisore, le ricerche mostrano che un televisore è in casa del 99,7% delle famiglie italiane. Quindi praticamente i primi interessatari di un contratto elettrico sono anche possessori di televisori. E siccome la tassa sulla, il canone è ormai da quasi 30 anni una tassa sul possesso di televisore, non si capisce perché un 25% delle persone non lo debba pagare, onestamente, non ha nessun senso. Detto questo, si pone invece un problema più generale che esula molto da questa questione, che è qual è il modello di televisione pubblica che vogliamo avere, che naturalmente è un problema. Io sono Bastian Contrari. Se una tassa sul possesso del televisore, oggi un televisore costa 350-380 euro, poi ce ne sono anche da 2500, allora che io debba pagare 100 euro l'anno su, perché ho un televisore da 300 euro l'anno, mi perdoni, questo non c'è nessuno in grado di convincermi della ragionevolezza di questo. Sappiamo che non è così, che è una tassa travestita per pagare il canone alla RAI, e quindi dovremmo innanzitutto chiamarla in quel modo. Magari uno dei tanti metodi per cui in BBC con la license fee si paga di più, per quei canali ti chiedono se li vuoi, se tu dici di no non paghi. A noi di tutto questo non è dato nulla, perché se anche lei mi viene a dire che pagare 100 euro per avere un televisore è una cosa giusta, io guardi, no, non lo è. Non lo è perché innanzitutto è una finzione che sono televisore. Secondo, dovremmo a quel punto dire facciamolo sul valore del televisore? Beh, e che facciamo? Per una casa di 300.000 euro paghiamo 100.000 euro di ICI ogni anno? Posso parlare un po'? Certo, no, io faccio la domanda. Ok. Allora, in tutti i paesi europei il canone, che fino alla fine degli anni 70 era una remunerazione per la televisione pubblica, che era stata decisa nel 45 e prima ancora negli anni 20 con la radio, è diventata una tassa sul possesso di televisore in tutta Europa, qualche anno prima o qualche anno dopo. Può essere giusto o non giusto, è un modo con cui lo Stato fa una tassa di scopo legandola al possesso del televisore per mantenere la televisione pubblica. Sul fatto che sia giusto o no mantenere la televisione pubblica è un argomento totalmente separato. Cioè, in sé, se io stabilisco che voglio avere una tassa di scopo, legarla al possesso di televisore non è del tutto irragionevole. Nessun paese è legato al fatto che la gente guardi i programmi della televisione pubblica. Però come nessun paese? Vale, in Gran Bretagna c'è il regime di Unione Europea. In Gran Bretagna c'è il regime di opting out, te lo chiedono, se tu dici no non paghi. Come sarebbe a dire? No. In Gran Bretagna paga solo se non si ha il televisore. Non è se vero, abbiamo documentato con i nostri ascoltatori, abbiamo fatto una trasmissione apposta per spiegare come funziona, con gli utenti di lì che ci hanno telefonato, ci hanno mandato il modulo in cui viene richiesto. Adesso scusi, può essere, non credo, noi non ci siamo inventati tutto questo, però abbia pazienza se la interrompo. Può darsi. Comunque, detto questo, come dire, se si decide collettivamente che il canone ha un senso, l'idea che ci sia un 25% di evasione no, non va bene. Se si cercano dei modi per ridurre l'evasione, questo ha un senso. Questo non cambia assolutamente la discussione sul fatto che se il canone sia giusto o meno. Però Marco, personalmente credo che il canone, che più che il canone in sé, che il modello di televisione che abbiamo in Italia vada un po' ripensato. Ecco, proprio su questo punto voglio chiedere, possiamo tirare una riga dicendo che il canone è in realtà una tassa sulla produzione, non sul consumo, è per quello che è illegittimo in un certo senso non pagarlo anche se non ha la televisione, ma ci torniamo dopo, vero? Sì, certamente. Fabbrica 2.4, viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fratelli d'Italia, l'Italia. della belva. Eccoci tornati in diretta 11:06 primi e 36 secondi con Palle dei Conti della Belva e con noi il professor Marco Gambaro, che insegna economia dei media alla Statale a Milano e col quale abbiamo iniziato a ragionare, insomma, sui presupposti di questo finanziamento. Da una parte questa nuova modalità di pagare la tassa sugli strumenti di autoricezione, dall'altra la questione se non sia il modo per eludere un punto nodale che negli altri paesi europei, con diverse risposte, c'è chi ha il canone, c'è chi non ce l'ha, chi ha gli spot, chi non ce l'ha, eccetera, eccetera, è stato affrontato e risolto in maniera diversa. Da noi, secondo noi, magari sbagliamo, questa maniera del canone in bolletta è un modo per eludere. Allora, professor Gambaro. Dunque, il canone, diciamo così, nei paesi europei c'è una tradizione di televisione pubblica che ha delle radici nella radio. Dovunque c'è questa tradizione, nella maggior parte dei paesi, negli ultimi anni si è puntato a separare la televisione pubblica dalle televisioni commerciali e a finanziarla prevalentemente col canone. Questa è una scelta probabilmente legata al fatto che le televisioni pubbliche esistevano già ed è anche molto difficile modificarle. In Italia questa scelta non funziona tanto perché abbiamo una televisione pubblica che, per un insieme di ragioni, si è messa storicamente a fare molta concorrenza alla televisione commerciale. Infatti l'Italia è un paese dove c'è molta concorrenza televisiva, almeno in parte, e però nel fare questo è diventata quasi una televisione commerciale. Questo ovviamente mina la legittimità del canone. Quindi il tema è che bisognerebbe cambiare un po' il sistema televisivo italiano. Però se io rendessi una RAI molto più diversa dalla televisione commerciale pagata dal canone, magari riducendola, lascerei la televisione commerciale con un unico operatore, che non praticamente, perché gli altri sono molto più piccoli, e di fatto questa è una situazione che non si registra in quasi nessun paese europeo. Quindi io, se volessi, potrei certamente, ad esempio, ridurre la dimensione della RAI molto e farle e mantenerla con una atteggiamento sostanzialmente non commerciale. In questo caso dovrei privatizzare uno o più canali RAI, farne un operatore commerciale. A questo punto avrei una televisione commerciale con un po' di concorrenza e avrei una parte più piccola che fa trasmissioni che il mercato non riesce ad offrire. Questa è una possibile soluzione. Però Marco, cioè, invece di metterci a fare politica industriale sul modello organizzativo della RAI, possiamo stare sul punto del perché pagare la produzione di quello che noi pensiamo essere un bene pubblico, che è un bene tipo informativo, che è un tema importante sul giornalismo. Allora, mi spiego. La tassa sulla RAI è diventata un'imposta dal mio punto di vista, cioè non può essere pagata sulla fruizione di un bene. Che chi non guarda la televisione della RAI o la radio ha diritto a non pagarla a questo punto, vero? E invece non è così dal mio punto di vista, è un'imposta che va sulla produzione, va a finanziare la produzione di un bene pubblico. Non va sulla produzione, non lo so va che cosa fa oggi. Possesso dell'apparecchio e quindi è completamente irrazionale, perché ripeto, finanziare un possesso, cioè tassare il possesso di un device, peraltro, che tra i mille che ci sono, è completamente fuori dal mondo e completamente contrario all'evoluzione tecnologica. È completamente fuori dal mondo, ma è quello che fanno tutti i paesi europei. Non me ne però, se io, Marco, scusi, il fatto che 10 paesi, esattamente, il fatto che 20 paesi europei, no, non è possibile. È certo, citare gli errori degli altri non giustifica i nostri. Senza dubbio, questa vicenda della televisione pubblica si è incartata per la televisione. Però da lei mi aspetto non una giustificazione sulla tassa del possesso del televisivo, che è veramente indifendibile. Mi aspetto un'argomentazione che dice: stiamo finanziando la produzione di un bene pubblico, ammesso che sia un bene pubblico. Ma cioè, diciamo, i contenuti negli altri RAI. Paesi, e se nella misura in cui si vuole una televisione pubblica che faccia delle cose che il mercato non fa, il canone appare una soluzione ragionevole. Questo, come dire, negli altri paesi, in molti altri paesi, adesso le storie sono diverse paese per paese, però la televisione pubblica negli ultimi anni ha accentuato questo suo ruolo di diversità rispetto alla televisione commerciale, cioè non va a fare gli stessi programmi. Quindi, infatti, il professor Gambaro è interessato proprio a questo. È un po' discutibile, naturalmente, è lo stesso, la verità. Ma da noi invece, quello che negli altri paesi, come lei sottolinea, quando si è posto nell'evoluzione diversa dei diversi sistemi il problema canone sì, canone no, in Spagna, in Olanda e così via, si è fatta una scelta di distinzione in modi diversi, è inutile generalizzare, ha ragione lei professore. Da noi però in questo modo non la faremo mai, non la affronteremo mai questa questione, perché ci sentiamo rispondere solo, per certi versi l'ho appena detto anche Carlo Alberto, scusate, la RAI in quanto titolare del servizio pubblico, chi l'ha detto e perché non sarà più possibile discuterlo quando scadono le concessioni nel 2016 e per fare cosa, in cambio di che cosa, e mi si tapperà sempre la bocca dicendo quello è un bene pubblico, morte agli, per dire, no, ai troppi evasori italiani, quindi glielo mettiamo nel carro, no, ma poi non lo affronteremo più questo tema. No, certo, però va detto, e non per tornare a questioni di politica industriale, che modificare, fare questa scelta volendo di come dire, fare una RAI molto separata dal mercato, che è una scelta possibile, implica ridisegnare l'intero sistema televisivo. E questo ha ragione, Il che lo rende ancora più difficile, perché non solo ci sono tutti quelli della RAI che sono, ma ci sono anche tanti altri che in qualche modo non sono d'accordo. Quindi questo è vero che lo rende più complicato. Del resto è vero che anche negli altri paesi si tratta di una scelta di compromesso, perché se in origine la televisione pubblica era l'unica che dava certe categorie di programmi che commercialmente non erano redditizi, con la frammentazione del mercato, l'aumento dei canali e le pay TV con tanti canali, io posso avere a pagamento delle offerte di musica classica, documentari, programmi di storia di alta qualità, esatto, che non sono più forniti all'operatore pubblico. Quindi questo è un problema che si pone in teoria. Vedi in che dobbiamo spostare il problema sulla televisione, un classico bene che è nato, come dire, in Europa come pubblico, perché il mercato privato non riusciva a sostenerlo. Adesso la situazione è ormai cambiata, probabilmente si potrebbe far diverso. Però cambiare i mercati dove ci sono apparati che hanno 10, 9, 15 mila, 20 mila, 25 mila persone non è mai facile. Ma infatti quando la Spagna ha deciso di disegno complessivo, quando la Spagna ha deciso di rinunciare al canone, e anche lì è inutile girarci intorno, il problema era l'elevata evasione, e c'è stato però un dibattito, hanno fatto una scelta nella quale naturalmente non è che non ci siano sovvenzioni pubbliche e non ci siano imposte, ci sono imposte addirittura su tipi di operatori privati di TV e di telefonia in Spagna, ma non c'è più il canone, però hanno dovuto affrontare una ristrutturazione serissima, perché hanno buttato fuori 6.000 persone. È ovvio, cioè sono capitate in cose. L'hanno chiusa la televisione pubblica in poi Grecia. Poi l'hanno riaperta. Però il tema vero qua non è tassare i televisori. Il tema vero è porsi il problema se ha senso finanziare la produzione di questa pletora di contenuti che non hanno nulla a che vedere con il servizio pubblico. Discutiamo di finanziare la copertura del news, è una cosa. Discutere di finanziare ESIS, l'attuale modello organizzativo della RAI, è completamente privo di senso. Ciò detto, è illegittimo da parte di ciascuno di noi, fatemi dire una cosa controcorrente, dire ma tanto io non la guardo e quindi non la pago. Questo è inaccettabile. E non è evasione. È sbagliato in nuce, il principio non è corretto. Se non è servizio pubblico, la chiudiamo, punto. Se è servizio pubblico, abbiamo tutti, e dal mio punto di vista la paghiamo in fiscalità generale. Ecco, a quel punto, se è, scusami, bene pubblico, cioè necessario e condiviso come tale, affermato come tale, offerto come tale, come la sanità, appunto, scuola, allora si paga con la fiscalità generale. Sì, però discuto della natura così. Del bene, cioè discuto a me, nani e ballerine, che siano bene pubblico. Ma altrimenti, scusate, non riuscite a convincermi. Noi dobbiamo ringraziare il professor Gambaro, perché il professor Gambaro altrimenti osserva che razionalmente, siccome mettere mano al dibattito che invochiamo noi solo per la RAI significa inevitabilmente mettere mano a una seria riflessione sull'intera offerta radiotelevisiva del nostro paese, con quello che significa, insomma, media, Sky, eccetera, eccetera, il professor Gambaro dice: guardate, allora la dovete dire tutta, perché questo è quello che. Però questo è molto complicato in Italia, perché siamo il paese in cui la politica, con la televisione, non solo per la parte pubblica, ma anche per Berlusconi, eccetera, eccetera, è lì. Allora, in questo, il professor Gambaro, secondo me, e ringraziamolo, noi l'abbiamo spesso interrotto in una maniera un po' appassionata, però ci dà la profondità vera di questa questione che sta dietro al canone in bolletta. Quindi attenzione, perché anche dire sì o no al canone in bolletta deve ricordare che questo è il punto di fondo. La particolarità italiana. Negli altri paesi scelte diverse, ma le hanno fatte anche perché non c'era questo intreccio dannato che c'è da noi. Grazie al professor Gambaro, torniamo tra un minuto. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia, le mesta, le... Belva. Eccoci tornati in diretta 11:17 primi e 58 secondi con Parla di Conti La Belva. Ci siamo molto appassionati sul tema del canone in bolletta, ma Mario, il più saggio di tutti, ha trattenuto le parole, però nel frattempo si è anche ha fatto una specie di revisione automatica di quanti tipi di contratti elettrici ha diversi con diversi contatori, sperimentando e immaginando che ce l'avrà un problema. Ma questo è un problema che deriva dal fatto che per decenni l'evoluzione dei contratti elettrici mica era collegata a quella della un patto di eredità familiare. Tra l'altro, i problemi ci saranno. Il governo sta presupponendo che le nostre famiglie sia una specie di bilancio consolidato organizzato, per cosa che fiscalmente non è perché illegale, ciascuno di noi è per cui mi immagino adesso dei trasferimenti orizzontali per cui pago un quarto sarà io molto del... bello molto bene andiamo a risolvere tutti questi problemi per tenere il baraccone della RAI dei partiti, perché poi io, a differenza di Carlo Alberto, che questa RAI sia un servizio pubblico, mi dispiace, lo disconosco proprio, però io finirò travolto, perché porre obiezioni significa essere evasori. Allora andiamo a un altro problema, quello rivelato da quest'altra retata di Sanremo in questa settimana. La Guardia di Finanza ha seguito delle segnalazioni dell'ex sindaco della stessa Sanremo, che veniva deriso e vilipeso dai dipendenti, che dicevano arriva la Gestapo, questo signore che sta sempre solo chiedere della puntualità e del regolare svolgimento del servizio in orario. La Guardia di Finanza, per conto della Procura d'Imperia, si mette lì e per mesi e mesi documenta il comportamento dei dipendenti del comune di Sanremo. L'effetto che porta a una retata di arresti e a oltre 170 indagati è che il 72% dei soggetti che la Guardia di Finanza si mette a controllare dei dipendenti di Sanremo incorrono adesso in reati gravi, truffa, danno erariale e danni dello Stato e così via, e che oltre il 40% del totale della pianta organica dei dipendenti di Sanremo risulta allegramente praticante queste belle ed edificanti pratiche. Avete visto tra le immagini le bambine, le figlie mandate col badge a passare per conto del padre, eccetera eccetera, quello che andava lì e poi andava a fare il canottaggio, chi faceva il moralista e tra poi canottaggio aveva e canottiera non so che cosa preferirei, però vabbè, sinceramente detto tutto questo, il nostro problema è questo. Ma allora, visto che questo succede quando c'è un controllo come Dio comanda, ma di quante centinaia di migliaia di dipendenti pubblici in realtà potremmo fare a meno? Domanda paradossale, però oggi vi invito per esempio a guardare i dati sulla Stampa. La Stampa, anche per pertinenza geografica, approfondisce ulteriormente il tema delle indagini di Sanremo. E guardate che se andate a vedere i dati 2014 sui 3,2 milioni di dipendenti pubblici, solo 6.900 hanno subito contestazioni disciplinari, e di questi 6.900 solo 220 sono stati licenziati. Cioè, ecco, questo è il ratio della efficacia reale delle strutture interne di controllo oggi, 220 su oltre 3 milioni. Abbiamo con noi, per parlarne in maniera paradossale ma fino a un certo punto, perché nel frattempo è passata, è stata approvata la riforma Madia, tutti siamo in attesa dei decreti attuativi. I decreti attuativi riguardano, e la riforma riguardano anche materie come quelle della modifica contrattuale per la produttività, la possibilità di essere vagliati, la mobilità territoriale, il fatto che ci sono i dirigenti a tempo, perché queste cose avvengono perché i dirigenti per primi tengono gli occhi chiusi e a propria volta non rispondono in modalità a tempo di obiettivi verificabili ex post, e al limite se non li raggiungono fuori, perché è ovvio che i dipendenti a catena si mettono a fare queste cose se sanno che il dirigente è muto e connivente. Allora, per parlare di tutto questo, per capire se abbiamo speranza e in concreto di che cosa di vedere modificato, ecco con noi il sottosegretario per la semplificazione pubblica amministrazione Angelo Lughetti. Buongiorno e grazie di essere collegato. Buongiorno a voi, buongiorno. Lei che dice, di quanti centinaia di migliaia di pubblici dipendenti potremmo fare a meno? Domanda provocatoria. Ma ha detto già tutto lei, quindi io posso dir poco. Ma intanto i pubblici dipendenti stanno scendendo, si stanno avvicinando piano piano la soglia dei 3 milioni, perché con il blocco del turnover riusciamo a ripulirlo. Sono sempre meno idonei a lavorare, invecchiano però, e diminuiscono. Esatto. Sì, dipende se siano meno idonei, no, poi dipende molto da che lavoro si fa, perché non tutti i lavori nella PA sono uguali. Io penso che, insomma, lei veramente ha toccato i punti caldi di questa cosa, perché è chiaro che c'è una assenza di controllo interno dentro il comune, perché come se arrivata la finanza potevano farlo prima l'amministrazione in carica e i dirigenti. B, c'è una cultura. Noi abbiamo sentito i sindaci, quello attuale e il precedente, che ci hanno detto sì e no. perché io ce l'avevo tutti contro e non è che potessi minacciare davvero chissà che cosa. Questa, cioè, infatti per quello vedete, la segnalazione alla fine l'ho fatta io, l'ex sindaco, e il sindaco attuale è stato informato prima di questi provvedimenti dalla finanza: guardi che noi abbiamo i controlli, veda lei, tant'è che noi gli abbiamo chiesto, ma lei come ha fatto per mesi a entrare ogni mattina e chiedere, e dice, si figuri come mi trovavo. Ecco, questo è quello che dicevano gli amministratori. Sì, però posso dire, è surreale, no? Certo. Cioè, è surreale che noi paghiamo delle persone per lavorare, queste persone, diciamo, non solo non vanno a lavorare, ma tengono sotto scacco un'altra un'intera amministrazione. È anche, diciamo, pesantemente sbagliato ed ingiusto per l'altro 60% dei comuni, dei dipendenti del comune di Sanremo, che si devono far carico anche del loro assenteismo. Allora, qua le chiacchiere stanno a zero. Io penso che si beccano anche gli insulti adesso di tutti i cittadini, essendo invece incolpevoli. Io penso che noi qua dobbiamo intanto distinguere due cose. Un conto è il penale, per il quale poi farà la magistratura, vedrà se ci sono i presupposti o non ci sono. Noi dobbiamo fare un'altra cosa. Noi dobbiamo fare in modo che le amministrazioni, quando individuano un fatto del genere, abbiano gli strumenti per mandare a casa queste persone. Oggi questi strumenti, ahimè, ci sono sulla carta ma non sono reali. Mm-mm. Perché il procedimento disciplinare è una cosa lunga, formale, formalistica, fatta di tempi da rispettare, atti da inviare, procedure da negoziare, alla fine della quale basta sbagliare una virgola o un apostrofo e si va davanti al giudice del lavoro che dice che non ci sono presupposti e che reintegra. Allora, noi nella delega, la riforma Madia approvata in agosto, abbiamo scritto che questa cosa va semplificata, cioè va fatto come si farebbe dentro, diciamo, un posto di lavoro normale. Cioè, se io reitero un comportamento errato, in questo caso timbro e quindi commetto anche forse un reato, ma questo, diciamo, si vedrà, quindi adotto un comportamento che non è in linea con i miei obblighi, perché io quando sto dentro un posto di lavoro ho firmato un contratto che è un fatto formale, non è soltanto, non è che ho fatto 13 quando vado a lavorare con la pubblica amministrazione, no, ho firmato un contratto, mi impegno a fare delle prestazioni, se non le faccio e se queste sono considerate gravi dalle regole che ci diamo insieme e che sono scritte nei contratti, questa persona va mandata a casa. Poi arriverà il procedimento penale o non penale, ma noi dobbiamo essere, come dire, liberi e sicuri di poter agire nell'interesse pubblico. Oggi questa certezza, ripeto, c'è sulla carta, dal punto di vista concreto non c'è, perché tutte le volte perdiamo. Quindi lei dice con i decreti di attuazione sarà davvero così, faremo un passo concreto davanti, cioè un sindaco a quel punto dirà al segretario generale, al dirigente generale del suo comune, guarda, se questi si comportano così, noi prima li avvisiamo, poi eccetera eccetera, ma se proprio continua abbiamo degli strumenti. Lei ci conta sul fatto? No, io conto su questo, e questo, diciamo, lo considero come dire, acquisito nel momento in cui abbiamo insieme al Parlamento approvato quella legge. Però vorrei fare un compasso in più. Cioè, io se fossi il sindaco, il primo che caccerei anche da quell'amministrazione è il dirigente che ha la responsabilità di quel servizio. Perché parliamoci chiari, quel dirigente là non ha fatto il suo compito come non hanno fatto gli altri. Poi non ha commesso una truffa, perché speriamo che non sia stato connivente, questo, diciamo, non lo possiamo sapere, ma sicuramente non ha svolto il suo compito. Allora, che noi continuiamo ad avere dirigenti che continuano a guadagnare delle retribuzioni, a prescindere, direbbe Totò, no, da quello che fanno. Sì. Cioè, se si comportano bene, se si comportano male, se fanno il loro lavoro, magari avrà preso pure l'indennità di risultato al 100% questo dirigente. Penso che non vada bene. Allora, anche qua bisogna fare un salto di qualità. Non è che il dirigente, diciamo, è tale perché ha una qualifica. Il dirigente è tale se si comporta da dirigente, se assume tutti gli atti che fanno parte del suo bagaglio di strumenti che ha a disposizione e che sono i suoi obblighi contrattuali. Se non è così, il dirigente vuol dire che non lo sa fare, tornasse a fare il funzionario, fa l'impiegato, ma non sa fare il dirigente. E su questo penso che l'amministrazione in carica dovrebbe fare una riflessione. Le faccio una domanda concreta per fare capire, poiché attualmente nel 90-95%, anzi io sapevo più o meno il 90%, però il dato più aggiornato, quello della stampa di oggi, dice che nel 2014 sarebbe il 95%. Il 95% dei casi di indagini disciplinari nella pubblica amministrazione, cioè quelli in cui c'è la sovrapposizione rispetto anche a indagini penali, come nel caso appunto di Sanremo, sarebbe attestato che si aspetta l'esito del processo penale per assumere le determinazioni delle indagini disciplinari invece amministrative interne alla PA, il che significa anni e anni eccetera eccetera, e quindi che la gente resta perennemente al lavoro. Con le modifiche, riforma Madia e in attesa del decreto attuativo, questa specie di connubio tra l'indagine disciplinare e le misure assumibili all'interno rispetto all'attesa del definitiva condanna penale, si separano le due cose o no? Sì, certo che si devono separare, perché sono due percorsi complementari, ma a volte non è necessario commettere un reato per dover essere licenziato, perché ripeto, il licenziamento scatta quando ci sono dei comportamenti ovviamente gravi, considerati tali non perché rimessi all'apprezzamento di una persona, ma perché ci sono una catalogazione di regole che stabiliscono in modo tassativo, e questo va ovviamente a tutela dei lavoratori, che quindi stabilisce in modo tassativo quali sono i casi in cui una persona debba essere licenziata. Però quando poi si rientra in questa fattispecie, cioè quando uno adotta un comportamento che è uguale a quello scritto nella regola, e allora l'amministrazione se ne deve far carico, deve avere gli strumenti per poterlo fare. Oggi a volte l'amministrazione non se ne fa carico per tantissimi motivi, non ultimo quelli di carattere politico, dall'altro non ha la strumentazione necessaria. Ecco, noi vogliamo andare in questo a dare una strumentazione necessaria. Esatto. Allora, però ci segnala un ascoltatore che nella vita fa il dirigente della pubblica amministrazione in una provincia, ammesso che si possano ancora definire così, che se qualcuno ti dice che occorre una legge per consentire alla pubblica amministrazione di licenziare in tronco senza aspettare il processo penale, sappi che il decreto legislativo 165/2001 lo consente da anni, esattamente dalla riforma Brunetta del 2009, dove praticamente l'articolo 55 quater 1A indica tra le cause di licenziamento falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente. Per cui direi che gli strumenti esistono già ora, giusto? Sì, esiste dal punto di vista formale, cioè c'è una previsione normativa che stabilisce il caso in cui tu tieni e serve? Non vai a lavorare. Che altro serve? Oltre alla fuori legge è forma, caro Lerubetti. No, il problema è la procedura, perché oggi per arrivare a quel licenziamento ho bisogno di una procedura che è complessa, quello che le dicevo all'inizio. Mm-mm. E quindi quello che è uno strumento che sembra esigibile, immediatamente cioè lo prendo. Cioè diventa una grida manzoniana. Cioè, diciamo che diventa complicato. Esatto. Allora, il compito nostro, diciamo, tra gli strumenti, è anche quello di rendere più facile questa cosa. Senta, però cioè, la sua osservazione, il suo appello morale alla sorveglianza dei dirigenti è un po' stucchevole. Dico perché, scusi, un funzionario amministrativo del servizio entrate e contenzioso tributario, oppure un istruttore amministrativo del servizio economato che non va a lavorare per giorni, che non controlla la mail, che non lascia tracce digitali, ha bisogno dell'appello morale al dirigente o basta un semplice software di controllo? No, mi lasci finire. Un semplice software di controllo che oltre alla rilevazione. Facendo dire una cosa diversa. No, lei ha detto che non è un appello morale. Che altro è, scusi? Responsabilità. No. Io parlo di sistemi semplici. Sistemi di controllo di esistenza in vita del processo economico di fondo, cioè il lavoro produce tracce. Però io avevo capito, questo segretario diceva, questa roba avviene perché ci sono dei dirigenti conniventi, prendiamocela anche con i dirigenti, ed è la mia stessa tesi. Ma colpa di chi disegna i sistemi di controllo, se io affido la potestà totale. Ma la colpa è di chi non fa il suo mestiere, no. Sistemi di controllo. Basta passare dentro una stanza, non penso il Comune di Sanremo sia una metropoli diffusa, no? Basta che uno scusi, passa nella casa segretario, di edificio, apre una porta, vede che non c'è un giorno, tre giorni, basta il software. Viene il sospetto, dice lo chiamo, dice ma dove sarà? Se non lo faccio qualche motivo è un appello morale il suo, e se lei prevedesse io voglio suo... che le persone facciano il loro lavoro perché le paghiamo per questo, non c'è nessuna, poi c'è anche un tema morale ed etico, ma lasciamolo da parte, qui c'è un fatto che è contrattuale e che fa parte dello stare insieme di una comunità. Se le persone si impegnano reciprocamente a fare delle cose, le devono fare, soprattutto quando queste persone sono dei dipendenti pubblici e vivono dello stipendio pagato dagli italiani. Torniamo all'appello morale, perché non prevede nei suoi sistemi... È un obbligo contrattuale, non c'entra nulla l'appello morale. Fantastico, se abbiamo la predisposizione al licenziamento nel decreto legislativo che era parte della riforma Brunetta e poi mancano le procedure operative e tentiamo... Le stanno cambiando, sì, però da quanto tempo quel decreto legislativo del 2009 non è colpa di... Io adesso quando ci sarà il decreto attuativo lo esaminerò come giornalista. Lo aspettiamo. Però, intanto l'hanno fatta passare in Parlamento ed è meglio che sia passata. Adesso il decreto attuativo lo vediamo e speriamo che in quel decreto attuativo siano previsti anche i software, per così dire, che giustamente Carlo Alberto solleva come questione, perché non c'è bisogno di aspettare tempo di passare negli uffici, dovrebbe dovrebbe essere automatico vedere se i dirigenti e i responsabili. Guardate che ci sono decine di funzionari e funzionari indagati a Sanremo, e lì era una macchina totalmente connivente, come è evidente. Va bene, intanto ringraziamo il Rughetti, col quale secondo me, caro Roberto, non è vero che c'è, la pensate diversamente, ma spezzo una lancia per una volta fuori un componente del governo. Fa un lavoro difficilissimo e tutta la mia solidarietà, ma poi perché siamo qua a pungolare, no, e pungoliamo, siamo qua a pungolare. No? Grazie, e torniamo tra un minuto con un altro tema, perché lo Stato a noi gli interessi di mora li fa pagare, ma quando sono invece sui debiti che non ha pagato i suoi fornitori, la risposta è no. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'Italia nostra è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ah, cari ascoltatori, noi siamo tornati in diretta, ma abbiamo l'obbligo, i compari dei corvi dei corvi della Belva, perfetto. No, però la lingua se ne va, non mi cambiate l'ornitologia sottostante, no? Quindi l'uccello nel senso di uccello nero, vabbè, diciamo. Ok, vedo che abbiamo aperto una valanga sì, ma ne parlavamo già fuori onda, per cui diciamo, esatto. Allora, okay. No, dicevo, i compari dei conti della Belva piangono perché, siccome abbiamo rotto l'apparecchio che ci dava i vostri sms, oggi ci sentiamo soli, questa è la verità. Esatto. No, vabbè, verrà riparato. Detto questo, andiamo a un altro bel capitoletto di come lo Stato ci tratta, e diamo conto di una interrogazione parlamentare che è stata rivolta dal gruppo 5 Stelle al Ministero dell'Economia, ponendo un problema di quelli classici della simmetria nel rapporto tra contribuente, cioè cittadino, e Stato. Perché, come è noto a tutti noi, se noi siamo in ritardo su un qualunque pagamento di imposta, tributo, tassa, eccetera, eccetera, paghiamo, come è giusto, profumatamente, gli interessi di mora, gli interessi sugli interessi, se non siamo in regola coi tempi, quando e se esiste la possibilità di razionarli, e così via. Lo Stato sul debito commerciale non pagato ai suoi fornitori, virgola, sparito dall'agenda pubblica, ma ultima stima relazione Banca d'Italia in ricrescita a 70 miliardi, virgola, come si comporta invece sugli interessi dovuti sui debiti non pagati? Perché in particolare avviene una certa cosa? Ha chiesto il gruppo 5 Stelle al MEF, e abbiamo la risposta del MEF. Quindi, per parlarci di che cosa ha risposto il MEF a questo problema importante, perché classicamente una simmetria dello Stato che fa quello che vuole, è con noi Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, in particolare l'interrogazione chiedeva una cosa relativa agli interessi sui debiti commerciali non pagati, perché? Spieghiamo bene la faccenda. Sì, perché in sostanza interessi, il debito, il credito che un imprenditore vanta nei confronti della pubblica amministrazione deve essere certificato attraverso una piattaforma. Esattamente. Ora noi siamo andati a raccogliere le istanze delle imprese che, come ben lei ricordava, arrivano a cifre, tra l'altro, di crediti liquidi ed esigibili di miliardi di euro, appunto l'ultima stima di 70 miliardi di euro. Ecco, queste imprese possono certificare attraverso questa piattaforma il proprio credito, e sulla base di quello quindi cercare di ottenerne la riscossione. A questo punto però ci siamo posti una domanda su questa: nel momento in cui si certifica questo importo, la piattaforma a disposizione non consente di aggiungere all'importo dovuto in quota capitale anche gli interessi moratori. E poi qui si sta parlando di uno Stato che liquida, in alcune parti d'Italia ricordiamolo, addirittura 400 giorni di distanza rispetto alla obbligazione perfezionata, è ovvio che è un enorme problema per gli imprenditori, cioè, certo, quello di non poter aggiungere attraverso questo sistema alla quota capitale anche la quota degli interessi di mora. E questo significa anche che per chi a quel punto ha ottenuto la certificazione e magari in condizioni ancora, per sua fortuna, col sistema bancario, con le banche con cui lavora la sua impresa, di andare lì per farsela scontare o addirittura cartolarizzare prosoluto in banca, e invece mancando la quota interessi la banca quello non glielo dà. E allora assolutamente voi... no, anche, voglio ricordare anche un altro aspetto, accanto alle banche c'è Equitalia, noi abbiamo fatto approvare una legge sulla base della quale un imprenditore può compensare una cartella esattoriale, ma a questo punto attenzione, mentre l'imprenditore avrà da compensare soltanto l'importo riguardante la quota capitale, ecco che invece la cartella di Equitalia già viene arriva comprensiva di sanzioni, interessi e quant'altro, quindi sono due evidentissime disparità. Di e quindi voi avete chiesto al MEF, ma perché? Noi abbiamo chiesto semplicemente, non neanche perché, come facciamo, dando per scontato che questi interessi... Che loro dicessero, dicessero, ma no, certo, correggeremo. E invece che cosa abbiamo risposto? No, invece hanno detto che in sostanza va benissimo così e che tutto questo risponde ad una logica inossidabile sulla base della quale un debito commerciale non può essere sommato, quindi l'importo dovuto per un debito commerciale non può essere sommato ad un debito di natura finanziaria. Naturalmente questo è solo se il debito è dello Stato nei confronti di fornitori, perché nei confronti dei contribuenti questa logica non si applica. Il denaro a quel punto è bene fungibile per tutti, tranne che per l'imprenditore, che a quel punto deve ben distinguere quel denaro a che titolo gli è dovuto. Quindi in sostanza l'imprenditore, qualora volesse a quel punto ottenere giustizia riguardante anche l'obbligazione legata agli interessi, dimora dovrebbe seguire un altro iter, cioè l'iter giudiziario, altrimenti nulla. Se lui segue, impugnate, tanto coi tempi che lo Stato vi garantisce, cari imprenditori, auguri, guardate. Esattamente. E questa cosa qui tra l'altro cozza anche con la risposta che avevano dato a noi ad un'altra interrogazione, dove invece chiedevamo un altro punto di vista, il punto di vista dell'imprenditore nel momento in cui comunque del debitore nei confronti delle banche, e lì la risposta è stata completamente diversa, perché avevamo posto il problema dell'anatocismo bancario e dell'usura e anatocismo bancario. Bene, c'è stato risposto addirittura che la pratica dell'anatocismo, qualora sia prevista da forme contrattuali concordate tra le parti, e lo sappiamo benissimo che tipo di moduli a volte ti fanno firmare in banca, e quanto potere contrattuale sbilanciato ci sia tra un imprenditore o comunque una persona che ha bisogno dell'accesso al credito e la banca, ecco, qualora sia previsto invece da una contrattualistica avvenuta tra le parti, ecco che in quel caso si può essere addirittura applicabile l'anatocismo bancario. Sì. E vabbè, comunque insomma, io ringrazio cara Rocco, ma chi in Parlamento continua a porre queste questioni, che sono le questioni basilari di una simmetria intollerabile del rapporto tra cittadino contribuente, imprenditore, operatore economico, insomma comunque nell'ambito dell'esplicazione delle proprie libere attività private, e Stato. Lo Stato applica due norme, due misure. Quindi, caro Alberto, quindi lo Stato certifica che non ha alcun incentivo a pagare in tempo, perché essendo autoesentandosi, no? Al di là del fatto che poi è un problema che risolviamo per via macroeconomica, cioè l'inflazione a zero, state tranquilli, no? La verità è che così facendo certifica che il suo incentivo è non pagare mai, perché ovviamente l'interesse ha questo finalità, no? Certo. Quello di avere un incentivo, quindi penalità, a rispettare la legge e a rispettare i termini contrattuali. Così facendo lo Stato elimina qualsiasi disincentivo a pagare in tempo. Allora il mio Fantastico. Commento è questo. Autoassolutorio. A questo Stato il mio commento è... Basta! Basta! Basta! No, ogni tanto, mi dispiace, ma torna la necessità di dirlo. Allora, un minuto grazie a Carla Ruocco e tra un minuto con Renato Cifarelli. Non si può fare! Stufe, caldaie e termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... della belva. Eccoci tornati in diretta in questo pezzo di trasmissione, privi della voce dei nostri ascoltatori purtroppo, perché gli sms Oimè, oggi non fanno il loro dovere, perché gli SMS hanno capito che devono pagare anche loro il canone in bolletta. Da, quindi iniziano a essere rarefatti. Io credo di dover butto lì, ma vedrete che Radio 24 nelle prossime giorni e settimane, c'è un iter adesso, assumerà un'iniziativa proprio su questa storia del canone in bolletta. Non perché ovviamente abbia, a differenza di me, un'opinione da propalare contro l'idea di legge di stabilità proposta, vedremo, sarà approvata di sicuro, di esigere la tassa sugli apparecchi a 12 e 20 in bolletta, però perché riterremo metterci a disposizione di voi tutti, cari ascoltatori, per una specie di centrale informativa di tutti i problemi tecnici che secondo me e secondo noi inevitabilmente insorgeranno nelle famiglie italiane, e di darvi voce per questo. Quindi vedrete che la prossima settimana partirà questa iniziativa, naturalmente che partirà, scalda i motori, poi davvero decolla quando la tassa diventa vigente, che però significa gennaio, e ci metteremo a vostra disposizione come Radio 24, non per strappare ascoltatori a Radio Rai del servizio pubblico, ma come servizio pubblico proprio per dire: scriveteci, segnalateci, perché noi dobbiamo dare voce, perché i problemi riguarderanno, non illudetevi, milioni di italiani. Allora, è con noi Renato Cifarelli. Buongiorno caro, dove sei? Buongiorno, no, sono a casa oggi, ma purtroppo ho anche un po' da lavorare questo periodo. Anche un po' da lavorare. Per fortuna, via. No, ma per fortuna. Per fortuna. E, ma nel tuo settore, noi abbiamo detto all'inizio della trasmissione, tutto auto, tutto, nel tuo settore come sta andando? Ma il settore nostro, io sono nelle macchine agricole, macchine agricole è un po' bifronte, perché c'è tutta la parte delle macchine grosse che sta andando abbastanza male, trattori, macchine. E quelle invece grandi di taglio più basso che va bene? Mentre quelle piccole che esportano a volte se la cavano. Io poi per fortuna o per scelta sono nella raccolta delle olive, quest'anno dovrebbe esserci una buona raccolta. Dopo quindi non c'è più il disastro dell'annata precedente. Allora, che cosa proponiamo come esempi di non si può fare questa settimana? Allora, mi sono segnato un po' di cosine, sto tenendo d'occhio SM Pavia, perché a questo punto è diventata una cosa divertente, che sta facendo un censimento dei conti correnti bancari. ASM, la municipalizzata che offre? Che offre i servizi a tutto il comune di Pavia e limitrofi. Stanno facendo un censimento dei conti correnti bancari perché il CDA si è reso conto di non sapere esattamente quanti conti e dove li avevano. Perché, spieghiamolo bene, risulterebbero da indagini pagate somme di un certo rilievo, senza che loro si rendessero conto che non andavano a chi credevano o dichiaravano di averli pagati. Sì, ma quindi adesso stanno appunto guardando quanti e dove hanno i conti correnti bancari, che è la tipica cosa che CDA non conosce, insomma, in quasi tutte le aziende, direi. C'è anche un'altra cosa divertente, stanno interrogando un imprenditore, ha detto che facevano i danni apposta all'università per poi fare gli appalti di riparazione. Devo dire che ho visto anche l'intervista di un presidente in cui spiegava che il mestiere di presidente in quella municipalizzata era firmare quello che gli davano in cartella da firmare, e non era suo dovere capire che cosa stesse firmando, perché per questo viene pagata gente che istruisce le pratiche. Cioè è l'intervista di un presidente che spiega come in una municipalizzata il presidente, nominato da un partito e di partito, sia un perfetto prestanome. Esatto. Poi di quella intervista lì a me faceva ridere il fatto che lui abbia dichiarato che non parlava con i sottoposti per non sminuirsi. Ognuno di queste cose, cioè ognuno ha una sua visione. Invece, una cosa personale, io sto riacquistando un capannone da un leaseback che è senza riscaldamento perché è un magazzino, e ho scoperto che va fatta la consulenza per l'efficienza energetica, che è un documento obbligatorio per le cessioni. Peccato che non c'è nessun consumo di energia, visto che non è riscaldato e c'è solo un impianto elettrico, ma comunque va fatta la consulenza, così i consulenti portano a casa qualche soldino. Ma secondo me la notizia della settimana è quella dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, di cui abbiamo parlato un sacco di volte, che erano decaduti in quanto una legge è stata dichiarata incostituzionale, già questo la dice lunga sul nostro sistema legislativo. Abbiamo ricordato all'inizio della trasmissione, Renato, non so se ci hai sentito, che quella sera fa per il terzo giorno di seguito una pagina a sostegno degli illegittimi, delle agentrate, e con Rosario Orlandi che non ce la fa a buttarla giù, che in questo governo Renzi lei non abbia la sanatoria, e fanno un'intervista a Enrico Zanetti, quindi ma lo ammetta, lei è un ex commercialista, quindi lei è contro l'agenzia, perché il problema adesso non è solo avere la sanatoria, ma che loro vogliono dei soldi in più. Ma comunque, chiusa parte. Esatto, infatti quello che è successo è che hanno invalidato un po' di atti a seconda delle cose, un po' sono riusciti a non farli invalidare, ma adesso questi dirigenti hanno presentato un ricorso alla Comunità Europea, alla Unione Europea, e noi come contribuenti, perché poi se paga lo Stato lo paghiamo noi con le nostre tasse, rischiamo di pagare, oltre a tutto quello che è già successo, anche 70 milioni, una ventina di mensilità ciascuno, ai 400 che hanno fatto ricorso, e il tutto perché? Perché loro a questo punto hanno detto: ah no, ma io allora noi siamo precari, e allacciandosi alla precedente legislazione, l'altra cosa che era stata fatta sui precari, loro dicono: noi non possiamo essere precari perché il contratto di lavoro normale è quello a tempo indeterminato. Quindi, oltre al danno, abbiamo una beffa e un gran casino come sempre, perché poi è uno Stato che a questo punto non si capisce più se è in grado di legiferare, se è in grado di andare avanti o cose di questo genere. Beh, certo, questa vicenda però la dice lunga, perché oramai, voglio dire, sono passati mesi e mesi dalla sentenza, il governo ha detto no alla sanatoria, però il braccio di ferro viene sotto gli occhi di tutti, cioè oramai loro vanno, fanno dei raid sui giornali e fanno scrivere ai giornali, quindi è una sfida al governo: noi siamo la vera frontiera contro l'evasione, il governo è con gli evasori, cioè quindi è una cosa veramente senza precedenti nella storia dei rapporti tra agenzie delle entrate con gli evasori. Scusa, adesso ci rialzano il limite dei contratti. Ma no, attenzione, questo è uno degli argomenti su cui contano i dirigenti illegittimi di agentrate, perché ovviamente è un argomento sui giornali, ci si va nella pagina a fianco in quella in cui si dice però Renzi sta facendo il contrario di quello che hanno fatto altri governi di sinistra e così via. Ed è effettivamente vero, che voglio dire, poi uno si gratta la testa vedendo che Padoan in pochi mesi ha detto l'esatto opposto. La rivoluzione mangia i suoi figli a suon di contraddizioni, diciamo. E quindi l'agenzia delle entrate, o meglio gli illegittimi dell'agenzia delle entrate, dicono: saremo illegittimi, cari italiani, ma quelli sono amici degli evasori, che è l'argomento con cui, come vedete, tappano la bocca a chi chiede la riforma della RAI, tappano la bocca a chi osserva sull'illegittimità dei dirigenti delle entrate, perché è l'arma finale, caro Carlo Alberto. Quando mi si dice: tu fai queste cose perché sei un amico degli evasori, è come la Santa Inquisizione che diceva: vedi, hai le macchie del diavolo. No, tu ridi, ma è così, caro amico, altro che si risolve tutto con i processi microeconomici. Qua ci fanno il processo dell'inquisizione, e ma quelli, gli argomenti microeconomici non li ascoltano. Ma perché è una forma distorta del principio di autorità: sei amico del peccatore e quindi sei peccatore, e invece di parlare di temi seri, quantitativi, questo ci insegna l'Agenzia delle Entrate. Ma siamo messi male, caro. Ma noi siamo qua per questo, e quindi sabato prossimo torneremo Conti la Belva, appuntamento con me lunedì mattina alle 8.15 con Alessandro Milan, Attente Noi Due, e poi il pomeriggio la versione di Oscar. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi